Condividerò una piccola riflessione per qualche minuto. Sono emozionato nel condividere questo perché è qualcosa che il Signore sta dicendo al mio cuore da un po' di tempo e sentivo davvero forte di condividerlo stamattina. Ed è un messaggio semplice, molto semplice, però è anche molto importante per le nostre vite. E quindi, vorrei portarvi a riflettere insieme su l'importanza di fare due scelte in particolare, attraverso l'analisi di tre piccole storie bibliche, ed è l'importanza di prendere una decisione nel seguire fermamente il Signore e la volontà del Signore per le nostre vite, e poi di prendere una posizione forte nei confronti del peccato, di distanza nei confronti del peccato e del non accettare il compromesso nella nostra vita. È un verso che enfatizza molto l'importanza di prendere queste decisioni, di fare queste scelte nella nostra vita, è il verso 15 e 16 che si trova nel capitolo 3 di Apocalisse, che possiamo leggere insieme, e dice: io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così, perché sei tiepido, non sei né freddo né fervente. Io ti vomiterò dalla mia bocca. E mi piacerebbe averlo qui ancora fino alla fine, questo verso. Perché la realtà è che il messaggio cristiano è molto... è radicale, non è moderato. E la vita del credente dovrebbe essere fortemente radicale nelle decisioni e nelle posizioni che prende. Altrimenti il rischio è quello di intiepidirsi, il rischio è quello di, presi dalla quotidianità, dimenticarci quella che è la volontà di Dio per le nostre vite. Il rischio è quello di, presi dalla quotidianità, presi da quello che viviamo, dimenticare i piccoli o grandi peccati che viviamo da tempo. Il rischio è anche quello di magari di malinterpretare il concetto di salvezza. Il Signore conosce le nostre opere. Certamente non verremo salvati per opere, ma per la nostra fede. Però se ci fermiamo a pensare, le nostre opere sono il risultato della nostra fede. Io non posso avere fede in Dio se non decido di seguirlo con tutto il mio cuore, mettendo a Lui, cercando di fare la sua volontà in ogni area della mia vita. Io non posso avere fede in Dio se non decido di prendere una posizione nei confronti del peccato. E vorrei, raccontare tre piccole storie ed enfatizzare alcune delle scelte che fanno i protagonisti. La prima è quella di Anania di Damasco e di Paolo. La conosciamo tutti benissimo. È il momento in cui Anania viene chiamato dal Signore per andare incontro a Paolo e prendersi cura di Paolo, perché in quel momento era cieco, si trovava sulla via di Damasco. E Anania accetta la volontà di Dio e va incontro a Paolo, e ricordiamoci che in quel momento Paolo non era tanto bravo come lo conosciamo nel seguito di Atti degli Apostoli, era ancora Saulo, era ancora conosciuto come Saulo, colui che perseguitava i credenti, i cristiani. E Anania esprime questa esitazione al Signore, dice: ma veramente devo andare? però poi va da Paolo e va incontro a quella che lui reputa una probabile morte, perché non sapeva che il Signore stava operando in Paolo, stava attuando un percorso di conversione in Paolo. E accetta, e mi ha fatto molto riflettere anche, pensavo al fatto che di Anania si parla in poco più di un verso in Atti degli Apostoli. Poi, una volta finita la storia, la conversione di Paolo, scompare, come se scomparisse per noi lettori. E ho pensato che forse questo, fra virgolette, è la normalità per i credenti, cioè dovrebbe essere la normalità. Non viene, diciamo, posto tanto in risalto, perché è la normalità fare la volontà di Dio nelle nostre vite. E ho pensato a quante volte per me è difficilissimo farlo nelle piccole cose, nel cambiare i lati del mio carattere, perché magari il Signore vuole che io smussi dei lati di me, accettare la sua volontà magari nella mia sfera relazionale e comportarmi con gli altri come il Signore vuole che io mi comporti, parlare come il Signore vuole che io parli, o magari mettere a Lui i miei sogni e lasciare a Lui la mia area lavorativa. E pensate quanto è difficile magari farlo accettare la volontà di Dio quando magari qualcosa che reputiamo rischioso per le nostre vite e non sappiamo il Signore dove ci voglia portare. E quindi questa era la storia che enfatizzava l'accettare la volontà di Dio, scegliere di perseguire la volontà di Dio per le nostre vite. L'altra storia, una seconda storia di cui voglio parlarvi è la storia di Amnon, figlio di Davide, che si innamora di sua sorella Tamar e sa che questo suo sentimento nei confronti della sorella è sbagliato. Però la desidera e mette in atto una serie di stratagemmi per raggiungere il suo obiettivo. Il problema è che quando raggiunge questo obiettivo, il suo amore per la sorella si tramuta in odio. E a causa di questo peccato, lui, dopo tempo, troverà la morte per mano di suo fratello Absalom. E quando leggevo questa storia pensavo a che cosa gli è servito ignorare quel sentimento sbagliato che provava, a cosa gli è servito non prendere una posizione nei confronti del compromesso, del peccato in quel momento. Il risultato per lui è stata la morte, avvelenarsi piano piano, ogni giorno che passava col peccato cosciente, attenzione, cioè nel senso lui era conscio di accettare un compromesso. E si è avvelenato. Per noi, ovviamente, magari riportato alle nostre vite, non moriremo, certamente, però la morte si intende anche la lontananza da Dio. Accettare il compromesso, accettare il peccato, significa consciamente allontanarsi da Dio. E poi una terza storia di cui voglio parlarvi, l'ultimo esempio, penso che racchiuda questi due punti, l'accettare la volontà di Dio e comunque prendere una posizione forte nei confronti del peccato, ed è la storia della storia di Sadrach, Mesach ed Abednego. La riassumo in breve. Loro sono tre ragazzi giudei che vengono deportati in Babilonia dal re Nabucodonosor dopo aver conquistato Giuda. E un giorno il re emana un decreto secondo cui aveva fatto erigere una statua e al suono di qualsiasi strumento durante la giornata i sudditi dovevano inchinarsi, adorare lui e i suoi dei. E i tre ragazzi si rifiutano di farlo. Non accettano il compromesso, non accettano di compiere quel peccato, perché avrebbero adorato un Dio all'infuori del nostro Dio, del loro Dio, ed era infrangere un comandamento, è un peccato a tutti gli effetti. E loro non lo accettano. E per questo vengono convocati alla presenza del re. E il re gli chiede, ma è vero che voi non vi siete inchinati? E li sbeffeggia, perché la condanna per questo peccato, per l'infrangere questo decreto, sarebbe stata la morte in una fornace ardente. E li sbeffeggia, li prende in giro dicendo, adesso quale Dio vi salverà dalla mia mano? E loro, fermi in quello che credevano, penso che siano stati molto decisi per quello che poi gli dicono, e loro gli dicono, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. Ecco perché dico, sono stati abbastanza fermi e ferventi, davvero ferventi in questa scelta. E continuano, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano. E poniamo attenzione a quello che dicono adesso. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque non adoreremo la tua statua d'oro che hai fatto erigere. E niente, la fornace viene accesa e per ordine del re, irritatissimo da questa risposta, da questa storia, 7 volte più forte del solito, tanto che gli uomini che gettano i 3 ragazzi nella fornace muoiono per il calore. Ma qualcosa succede, tanto che anche il re viene avvolto dalla paura. E i 3 ragazzi escono slegati, illesi dalla fornace. Persino, si fa enfasi nei versi, persino le loro vesti erano illese. Sorvolo sul continuo della storia per mettere l'attenzione sulla loro determinazione, sulla loro radicalità, sulla loro fedeltà nei confronti della volontà di Dio. Ed erano pronti ad accettarla, anche se quella volontà significava morire in quella fornace. Loro avevano fede che Dio poteva operare, però dicono, anche se non dovesse farlo, noi non ci inchineremo davanti a te, noi non adoreremo un altro Dio, non accetteremo il compromesso nella nostra vita, non accetteremo il peccato nella nostra vita. Mi piace tanto questa storia perché è proprio il contrasto a quella di Amnon. Mentre Amnon è conscio del sentimento sbagliato, è conscio di quell'errore e lo ignora, perché molto spesso anche questo è quello che viviamo, lo ignoriamo, andiamo avanti. Però ci si avvelena così e ci si allontana solo dal Signore. Loro invece trovano la via, accettando la volontà di Dio, prendendo una posizione nei confronti del peccato, trovano la vita da una situazione di morte certa. Cioè vivono la benedizione di Dio, vivono un miracolo vero e proprio. Ed è questo che possiamo vivere anche noi. Possiamo vivere abbracciando queste decisioni, possiamo vivere le benedizioni che Dio ha in serbo per noi. E quindi vorrei concludere dicendo, prendiamo una posizione nelle nostre vite. Non dobbiamo essere tiepidi, dobbiamo essere ferventi. Non trascuriamo ciò che crediamo che non comprometta la nostra salvezza. Non rimaniamo in quella zona grigia in cui ci professiamo credenti, però abbiamo un tot di peccati, un margine di peccati che possiamo commettere, perché ormai ci siamo convinti che tanto c'è la grazia, tanto c'è il Signore che ci perdona. E anche quella zona grigia di cui parlo è anche il smettere di sottostare a quelle che sono le leggi del mondo. Se io ho fede in Dio, credo di essere un credente, non parlo come gli altri parlano attorno a me, non critico come gli altri criticano attorno a me, non infrango una legge, non tradisco mio marito, mia moglie, rispetto i miei genitori, eccetera, eccetera. E dobbiamo uscire dalla cultura del mondo e abbracciare per la nostra vita quelle che sono le leggi del Signore. In tutto. Perché noi non facciamo più parte del mondo, siamo nel mondo, ok, ma non siamo del mondo. Quindi usciamo da quella cultura, prendiamo una posizione nei confronti di quella cultura e non viviamo più se l'abbiamo vissuto, ma non viviamo con superficialità la nostra cristianità. Scegliamo di dimostrare con le nostre opere che abbiamo fede in Dio. E questo è anche tu non io. La tua volontà per la mia vita, Signore, non la mia. Le tue leggi, non le mie leggi nella mia vita. E quindi davvero vorrei pregare e vorrei anche spingere chiunque abbia voglia davvero di prendere una posizione per la prima o per la millesima volta nei confronti del peccato, nei confronti del seguire la volontà di Dio, a prendere una posizione ferma, potente, che porti vita, che porti davvero le benedizioni di Dio. e davvero che possa anche essere una scelta radicale. Purtroppo non è sempre semplice, però poi il risultato c'è, l'opera di Dio si vede, e non è semplice perché non lo sappiamo che cosa prevede, non è semplice perché non sappiamo che cosa succede dopo, però crediamo alle benedizioni di Dio, crediamo alle promesse di Dio per le nostre vite, e quindi vorrei pregare per questo. Padre, davvero ti chiedo grazie per tutto quello che fai nelle nostre vite, giorno dopo giorno, Padre, per le benedizioni che hai stabilito, per le promesse che hai messo sulle nostre vite, Padre. Ti chiedo davvero che ogni giorno tu possa darci la forza di prendere una posizione ferma nel scegliere di seguirti, nel scegliere di prendere una posizione di distacco dal compromesso, di riconoscerlo, di darci la sapienza e il discernimento di riconoscere il compromesso che viviamo, Padre, e di prendere una posizione netta nei suoi confronti, Padre. Davvero aiutaci in questo, dacci la forza, dacci la costanza, Padre, dacci la fede che ci manca, Padre, per fare la tua volontà, Padre, per accogliere le tue leggi nella nostra vita anche, Padre, per avere il coraggio di distinguerci dal mondo, non perché vogliamo emergere dal mondo, non per sentimenti umani, Padre, ma perché vogliamo fare vogliamo rispettare le tue leggi, Padre, vogliamo portare la tua cultura in questo mondo, Padre. Che questo possa essere il nostro desiderio, che il nostro desiderio possa essere il dimostrare la nostra fede in te, Padre, attraverso le nostre opere, Padre. Che possiamo piacerti, Padre, possiamo davvero fare tutto quello che facciamo durante la giornata e che quello possa essere un profumo a te, Padre, che ti possa dare gloria, Padre, la nostra vita che ti possa dare gloria dal mattino alla sera, Padre. Ti chiedo questo, Padre, per la tua Chiesa, Padre, nel tuo santo nome. Amen.